TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia. Maltempo, una frana fa crollare tre case a Cormons. Una persona è stata estratta dalle macerie, due risultano disperse. Si tratta di un giovane e di un'anziana. L'uomo è stato travolto mentre stava soccorrendo la donna imprigionata nel fango. Situazione critica anche a Versa, una frazione di Romans, dove è esondato il torre. I vigili del fuoco stanno intervenendo con un elicottero e natanti leggeri per mettere in salvo le persone. Allagamenti all'ospedale di Palmanova, a San Giorgio di Nogaro, esondato il corno. Prima udienza al Tribunale di Udine, di carattere tecnico, del processo per la tragedia del Natisone in cui persero la vita tre giovani. Verranno riuniti i procedimenti a carico dell'infermiere della Sores e dei tre vigili del fuoco imputati. Ancora un'aggressione al personale sanitario è accaduto all'ospedale di Udine. Colpita con un pugno un'operatrice sociosanitaria. Arrestato un cittadino marocchino di 42 anni. Sono stati pagati gli stipendi dei 409 lavoratori civili italiani della base USAF di Aviano che erano rimasti senza la paga di ottobre a causa dello shutdown negli Stati Uniti. A sbloccare i salari l'intesa raggiunta sulla legge di bilancio USA. Sarà Cerise Chalandon, una delle voci più intense e originali della narrativa francese contemporanea, il protagonista della 32esima edizione del Festival Dedica, in programma a Pordenone il prossimo marzo. Ancora un cordiale buongiorno da parte di Daniele Lettige e di Elisabetta Zaccolo in studio per questa seconda edizione del nostro giornale radio. Una violenta ondata di maltempo si è abbattuta sulla regione colpendo in particolare il Friuli e la zona di Cormons, dove tutto il paese con il fiato sospeso per la sorte di due persone travolte dalla frana di fango causata da piogge eccezionali, oltre 125 mm in sole tre ore. Si tratta di un 35enne tedesco che stava tentando di aiutare un'anziana sua vicina di casa. Tre gli edifici letteralmente divorati dalla colata di fango proveniente dalla collina retrostante che ha ceduto. Il sindaco di Cormons ha chiuso le scuole. In diretta abbiamo Antonio Di Bartolomeo. Siamo qui nei pressi del campo base allestito per coordinare le ricerche dei due dispersi che, come dicevate, sono un tedesco di 35 anni che si era trasferito da non moltissimo a Cormons, aveva aperto anche un anno fa un negozio di frutta, molto conosciuto qui in paese a Brazzano di Cormons. È una signora che lui probabilmente stava cercando di avvisare, perché c'erano dei rumori che si erano sentiti dalle case che poi sono state travolte, le tre case che sono state travolte. Insieme al tedesco c'era un altro uomo che è rimasto anche lui ferito, è stato coinvolto nel crollo, ma per fortuna i vigili del fuoco sono riusciti ad estrarlo nell'immediatezza vivo ed è in condizioni non particolarmente gravi, ricoverato all'ospedale di Udine. Qui a campo base di Cormons siamo sotto la collina San Giorgio, una collina dove ci sono piante di viti, ci sono vigili del fuoco arrivati anche dal Veneto, persino personale sanitario arrivato dal Veneto, personale specializzato nella ricerca e nel soccorso di persone sotto le macerie, oltre ovviamente alle unità cinofile dei vigili del fuoco regionali. Finora nulla è stato sentito da sotto le macerie, non ci sono particolari novità nelle ultime ore, si opera con una certa attenzione perché chiaramente la collina è fragile, tanto più adesso e c'è ancora tanta acqua che piove e che viene giù. Questa dunque è la situazione a Cormons, come dicevi, scuole chiuse, il territorio è stato duramente colpito, ci sono diverse attività, diverse case allagate, abbiamo visto anche sei auto in una rotonda tra Cormons e Borgnano che praticamente sono rimaste bloccate dall'acqua, i vigili del fuoco sono intervenuti anche lì per via dell'esondazione dello Iurio e hanno messo in salvo nove persone. Sentiamo intanto su di noi l'elicottero che vola con diversi, appunto, i sorvoli che abbiamo potuto testimoniare nell'ultima ora, mentre di fronte a noi vediamo ancora il fiume di fango che scende dalla collina ininterrottamente. Da Brazzano di Cormons è tutto, la linea può tornare a voi. Grazie ad Antonio Di Bartolomeo e adesso ci spostiamo a Versa, dove anche una frazione di Romans di Sonzo, in cui anche lì il maltempo ha imperversato a seguito dell'esondazione del fiume Torre. Alcune persone sono state costrette a rifugiarsi sui tetti delle abitazioni, allagamenti anche all'ospedale di Palmanova. È una corsa ad allestire i posti letto nel palazzetto dello sport di Romans di Sonzo, dove stanno arrivando i primi sfollati della frazione di Versa, 300 abitanti. Gli elicotteri recuperano le persone isolate nelle case accerchiate dall'acqua. La stessa cosa fanno i gommoni. Pioggia torrenziale nella notte. Il torre è esondato. La situazione è in divenire, dice il vice sindaco di Romans, Matteo Gargaloni. Problemi anche a Palmanova, dove si è allagato lo scantinato dell'ospedale. Poco i chilometri più in là, a Visco, idrovore in funzione e gente bloccata in casa dall'acqua fino a metà mattina. Romans di Sonzo, Rita Micoli, TGR Friuli, Venezia Giulia. Staremo vicini alla popolazione concretamente, anche nella legge di bilancio cercheremo di affrontare le prime necessità con un intervento di carattere finanziario, lo ha annunciato il governatore Fedriga in merito alla situazione del maltempo. L'assessore competente Riccardi sta per chiedere lo stato d'emergenza regionale e aiuti da vigili del fuoco e protezione civile di altre regioni. E ora cambiamo argomento. Prima udienza oggi del processo per la tragedia del Natisone, che approda in aula ad un anno e mezzo dalla morte dei tre ragazzi. Rito immediato, senza udienza preliminare. Oggi il procedimento ha visto imputato l'infermiere della Sores. Ad un anno e mezzo dai fatti è iniziato con un'udienza tecnica di appena 15 minuti il processo per la tragedia del Natisone. Pubblico Ministero, Difesa, parti civili, tutti d'accordo nella necessità di riunire i due procedimenti che al momento vanno avanti paralleli. Da una parte imputato infermiere, dall'altra tre vigili del fuoco della sala operativa. Il giudice ha rimesso al presidente della sezione penale del tribunale la decisione il prossimo 2 dicembre. Il primo elicottero arrivò 43 minuti dopo il primo SOS dei ragazzi, 3 minuti troppo tardi. Presenti in aula le famiglie di Patrizia, Bianca e Christian, per tradurre la loro rabbia e il loro dolore si fanno aiutare da un'amica, Petru Radu Molnar, fratello di Christian. Loro hanno ucciso suo fratello. Anna Molnar, madre. Le situazioni. Senza nessun, che ne so, una barca, un elicottero, un qualcosa in 40 minuti, voi ce la potete fare? No, sono arrivati con tre funi. Sabina Crina Doros, sorella di Bianca. Lei vuole sapere che la giustizia italiana in quanto tempo farà veramente giustizia, visto che tutte le carte sono sul tavolo. Accolta la costituzione di parte civile, chiesta la responsabilità solidale degli enti di appartenenza, l'Agenzia regionale di coordinamento per la salute e il Ministero dell'Interno. Il legale delle famiglie si aspetta un processo lungo e non certo semplice. Maurizio Stefanizzi. In questo caso il capo di imputazione, non dimentichiamolo mai, è omicidio colposo. Plurimo. È sempre complesso andare a vedere quali sono i profili di responsabilità, soprattutto calibrarli in base alle azioni ed omissioni di ognuno. Maria Michaela Tritian, mamma di Patrizia. Questi ragazzi si potevano salvare e non ho dubbi. In tutti questi mesi avete ricevuto visite o telefonate da parte delle istituzioni regionali o statali? No, da nessuno. Udine, Lillo Montalto Monella, TGR, Friuli Venezia Giulia. La polizia di Udine nella notte tra venerdì e sabato ha arrestato un cittadino marocchino di 42 anni, responsabile di un'aggressione ai danni di un'operatrice sociosanitaria dell'ospedale Santa Maria della Misericordia. L'uomo aveva fatto accesso al pronto soccorso nella precedente mattinata per abuso di alcol e, in attesa di essere visitato, ha avuto un atteggiamento molesto con i sanitari fino al punto di denudarsi. Un'operatrice sociosanitaria ha tentato di riportare il paziente a letto ma è stata colpita al volto con un pugno. È stato quindi attivato il sistema di allarme antiaggressione direttamente collegato con la sala operativa della questura, presente da qualche mese presso il pronto soccorso a tutela del personale sanitario, permettendo così un immediato intervento degli operatori della squadra volante. L'uomo, già noto alle forze dell'ordine, ha continuato a mantenere anche nei confronti degli agenti intervenuti un atteggiamento violento. È stato quindi arrestato e trattenuto presso le camere di sicurezza della questura in attesa del giudizio direttissimo. La polizia di Trieste ha dato esecuzione a un'ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di un triestino di 62 anni, responsabile del reato di maltrattamenti ai danni della moglie e delle figlie. Il personale della squadra giudiziaria del commissariato di Opicina aveva avviato un'attività investigativa per rintracciare l'uomo che, dopo aver violato le disposizioni inerenti all'applicazione del braccialetto elettronico e del divieto di avvicinamento ai familiari, emanato a seguito delle reiterate denunce delle vittime, si è reso completamente irreperibile poco dopo aver denunciato il furto del proprio cellulare e del dispositivo di controllo elettronico anti-stalking. L'attività di indagine e il costante e intenso controllo del territorio hanno permesso agli agenti di rintracciare l'uomo nei pressi di Piazza Oberdan, dove è stato tratto in arresto il 5 novembre. Uno sguardo al tempo e cielo coperto su tutta la regione, queste le temperature registrate alle 11, a Trieste 14 gradi, a Udine, Gorizia e Pordenone 12,5, a Tolmezzo 9 gradi, a Tarvisio 8, a Forni di Sopra 5,5, a Piancavallo 5,5, a Sappada 3,5, sul Monte Lussari 1 grado, sul Monte Zoncolan 0 gradi, a Grado 14,5, a Lignano 13,5. Le previsioni: nelle prossime ore avremo cielo coperto con piogge in genere moderate al pomeriggio, in serata possibili temporali con piogge localmente intense. Dalla tarda serata soffierà vento sostenuto da nord in pianura e di Bora Trieste. La quota neve scenderà dai 2000 metri a 1000 metri circa sulle Alpi, a Fondovalle, nel Tarvisiano. È prolungata l'allerta meteo gialla, che resta valida fino alle 12 di domani. E ora i lavori del Consiglio regionale. In attesa dell'arrivo nelle commissioni del disegno di legge relativo alla manovra finanziaria calendarizzata per giovedì, oggi la prima e la seconda commissione si stanno occupando del nuovo disegno di legge che modifica le norme per il sostegno all'acquisto dei carburanti e sancisce il passaggio al sistema digitale con la messa in pensione della vecchia tessera fisica dei POS. Dai gestori la richiesta di accelerare nella chiusura del sistema ibrido. L'assessore all'ambiente Scocimarro ricorda però che il rallentamento è anche dovuto ai tanti gestori che dal principio hanno remato contro il passaggio al digitale. L'obiettivo, come sempre, è quello di incentivare e supportare i cittadini nella transizione digitale senza imporre obblighi o togliere contributi a chi, sappiamo per certo, non rinuncerà alla mobilità privata andando a fare il pieno in zone più convenienti oltre confine, spiega la seconda commissione l'assessore regionale all'ambiente Scocimarro, presentando il suo disegno di legge di modifica delle norme per il sostegno all'acquisto dei carburanti, che sancisce il nuovo sistema digitale che prenderà il posto delle vecchie tessere e dei POS, oggi non più reperibili sul mercato. Siamo a circa metà del percorso di attivazione dei nuovi QR code che si potranno anche inviare a casa dei cittadini che ne facciano richiesta, afferma Scocimarro. L'assessore richiama pure la novità degli uffici relazioni col pubblico attivi nelle sedi della regione a Udine, Pordenone, Trieste, Gorizia e Tolmezzo, che si sostituiranno alle camere di commercio nel rilascio delle identità digitali, con un risparmio per la regione di circa 400.000 euro, ricorda, oltre 300.000 le identità digitali già rilasciate delle 600.000 stimate, e 430 dei 435 gestori interessati sono già operativi. Riguardo alle fasce di contribuzione sugli acquisti di carburante, è molto complicato per Scocimarro andare a toccare l'attuale suddivisione, perché c'è il rischio concreto di nuovi contenziosi con l'Unione Europea. Il disegno di legge prevede la possibilità di usare ancora le vecchie tessere e i POS fino alla loro dismissione, in ogni caso non oltre il 31 dicembre 2026, una proroga che non piace al presidente della Federazione Italiana dei Gestori Bearzi, tra i primi auditi in commissione, che chiede alla Regione un'accelerazione. Molti gestori però finora hanno remato contro, osserva Scocimarro. Plauso per la misura e per la spinta verso la digitalizzazione dalle associazioni dei consumatori e dalle aziende distributrici dei prodotti petroliferi, ma anche la richiesta che l'innovazione sia accessibile a tutti. Il disegno di legge, dopo il passaggio in commissione, tornerà in giunta per l'approvazione definitiva, per approdare in consiglio regionale per diventare legge nelle prime settimane di gennaio. Lara Boccalon, TGR Friuli Venezia Giulia. Esito positivo per gli stipendi dei lavoratori civili italiani della base USAF di Aviano, che erano bloccati a causa dello shutdown. Sono stati pagati questa mattina gli stipendi dei 409 lavoratori civili italiani della base USAF di Aviano che erano rimasti senza la paga di ottobre a causa dello shutdown negli Stati Uniti. A sbloccare i salari l'intesa raggiunta sulla legge di bilancio USA. Resta tuttavia alta l'attenzione dei sindacati Fisascat e Wiltux, che hanno seguito l'avvertenza, perché l'accordo ha una durata temporanea fino al 30 gennaio. Il 19 novembre è in programma una riunione del coordinamento nazionale a Roma. Positiva la notizia dello sblocco degli stipendi, anche se con quasi 3 settimane di ritardo, ha commentato Angelo Zaccaria della Wiltux, che aggiunge: è fondamentale capire perché sia successo questo blocco che non ha precedenti e fare in modo che non si ripeta a gennaio. Perché, ricorda, in base agli accordi bilaterali, i lavoratori italiani sono soggetti alla legislazione nazionale e non a quella americana. La regione aveva offerto una soluzione tampone, offrendo prestiti a tasso zero tramite le banche locali del credito cooperativo. Aviano, Natascia Gargano, TGR, Friuli Venezia Giulia. Il modello del Lab Village, il polo di ricerca avanzata integrata con le imprese dell'Università di Udine, è stato presentato a Pechino dal rettore Angelo Montanari, che ha partecipato con una delegazione della Conferenza dei Rettori delle Università Italiane alla missione in Cina guidata dal ministro dell'Università e della Ricerca Anna Maria Bernini. In questo quadro si è tenuto il primo forum dei rettori Italia-Cina, che ha dato vita a un memorandum d'intesa tra la CRUI e l'omologa associazione cinese. Per il nostro Ateneo, ha sottolineato Montanari, la missione è stata l'occasione per iniziare un dialogo con diverse università cinesi per possibili iniziative congiunte in ambiti quali le geoscienze, le tecnologie alimentari, l'ingegneria meccanica e l'intelligenza artificiale, e poi le lingue e le digital humanities. Il rettore ha spiegato che l'UniUD Lab Village è un modello virtuoso che vuole instaurare una collaborazione di medio e lungo termine tra università e aziende, alternativa alla consueta consulenza accademica. Un esempio esportabile, ha detto Montanari, dove il coinvolgimento in questa rete collaborativa, nelle forme più opportune, di realtà accademiche, industriali, di altri paesi, Cina inclusa, può rappresentare un'occasione di potenziamento e valorizzazione reciproca nel segno dell'innovazione. Un progetto per contrastare lo spopolamento della montagna. La cooperativa sociale Cramars, che propone attività che generano nuove opportunità lavorative, imprenditoriali e sociali in montagna, ha presentato a Buongiorno Regione i risultati di un progetto appena rilanciato a livello nazionale. Vado a vivere e lavorare in montagna è la scelta di diverse persone che hanno aderito al progetto della cooperativa sociale Cramars, che ha come obiettivo contrastare il fenomeno dello spopolamento in montagna, valorizzandola e invitando persone o famiglie che a sua volta portano idee e innovazione, come i Cramars di un tempo, i mercanti ambulanti della Carnia, che viaggiavano e poi tornavano portando sempre qualcosa di nuovo e dunque un cambiamento. Stefania Marcoccio, presidente della cooperativa sociale Cramars. I nuovi abitanti ormai, diciamo, sono attratti dai paesi più piccoli in maniera, mi viene da dire, naturale. Lo ha dimostrato il rapporto UNCEM che è stato presentato quest'anno, dove parla appunto di un saldo migratorio positivo. Quindi le persone si muovono e sono attratte proprio da queste cose, no? Da una vita più tranquilla, dal tema del cambiamento climatico. Il progetto è stato appena riproposto a livello nazionale grazie ad un fondo di LegaCoop e promosso attraverso una piattaforma digitale. Siamo capogruppo di una decina di cooperative suddivise tra la Sardegna, la Valle d'Aosta, la Puglia, il Molise, la Basilicata, a testimonianza che poi le aree spopolate e in difficoltà sono aree interne, ma sono suddivise sull'intero territorio nazionale. Tra i progetti di punta della cooperativa Cramars, Silver in Alps, l'allenamento cognitivo misurato per anziani residenti in montagna, svolto attraverso chiacchierate telefoniche. L'82% ha visto migliorato la loro posizione. Molte di queste persone oggi stanno frequentando i centri di aggregazione gestiti dai servizi. Il fatto che queste persone hanno percepito loro stesse migliorate, quindi si sono autovalutate come più sicure, più intraprendenti. Trieste, Vaciuc, TGR, Friuli Venezia Giulia. In vista della giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne, il PD di Trieste organizza un incontro pubblico alle 18 al Circolo della Stampa sul tema dell'educazione affettiva e sessuale nella scuola, un'occasione per conoscere buone pratiche già attive in altri paesi europei, le raccomandazioni dell'OMS, riflettere insieme su come portare anche in Italia un percorso educativo inclusivo. Abbiamo sentito la segretaria del PD di Trieste, che è anche insegnante alla scuola media Giotti, Maria Luisa Paglia. Quando si parla di educazione sessuale nelle scuole, talvolta si pensa che verrà insegnato il sesso, ma invece, e come fanno in quasi tutta Europa, si educa al rispetto, al consenso, all'uguaglianza, alla prevenzione della violenza. e questo dovrebbe avvenire sin dalle prime classi della scuola primaria. L'Italia è l'unico paese in Europa a non avere una norma nazionale che rende stabile un percorso strutturato di educazione sessuale. D'altronde la scuola è il luogo più adatto perché è un ambito protetto. Come procedere? In che modo inserire l'educazione sessuale nelle scuole a contatto con le istituzioni e anche le istituzioni sociali del territorio? Anni fa io ho adottato un progetto del genere, non era proprio un progetto di educazione sessuale, ma era di prevenzione agli abusi sessuali. Il progetto è stato inserito all'interno dell'attività didattica, quindi senza nessuna autorizzazione delle famiglie, attraverso fiabe, attraverso metafore, aiuta i bambini a saper dir di no, a gestire il loro consenso, a fissare dei paletti, dei limiti, ma a fidarsi soprattutto dell'adulto. Se qualcuno ti vuole fare una carezza che ti disturba, devi chiedere, devi fare riferimento a un genitore. Era un modo di prevenire degli abusi. Allora, allo stesso modo, si possono fare dei percorsi. Sicuramente necessita la formazione dei docenti, la formazione degli operatori di polizia, la formazione in senso più ampio, perché non siamo abituati anche ad impartire, cioè, e comunque ci sono delle, come dire, dei progetti veri e propri che possono formare strada facendo sia la parte docente che la parte genitoriale. Sarà Sori Chalandon, una delle voci più intense e originali della narrativa francese contemporanea, il protagonista della 32esima edizione del Festival Dedica, in programma a Pordenone a marzo. Reporter di guerra per oltre 30 anni, pluripremiato per la sua attività giornalistica, Sori Chalandon è il protagonista dell'edizione 2026 del Festival Dedica, in programma a Pordenone dal 14 al 21 marzo. Considerato tra le voci più originali della narrativa francese, ha trasformato memoria, ferite private, tragedie collettive in romanzi tradotti in tutto il mondo, dal Mio traditore alla Professione del padre, fino ai più recenti Una gioia feroce e La furia. Al centro della sua opera temi come tradimento, paternità, violenza e possibilità di redenzione. La manifestazione promossa dall'associazione Tesis con la direzione artistica di Claudio Cattarruzza dedica ogni anno un'intera settimana a un autore capace di raccontare il presente attraverso i suoi libri, e anche per il 2026 il festival ha scelto la voce di uno scrittore internazionale, la forza civile della letteratura contemporanea. L'evento proporrà incontri, spettacoli, mostre e dialoghi insieme alla monografia dedica a Sori Chalandon. In concomitanza con il festival uscirà per Guanda anche il suo nuovo romanzo, Il libro di Kells, racconto autobiografico della sua giovinezza. Pordenone, Natascia Gargano, TGR, Friuli Venezia Giulia. E siamo allo sport, il basket di Serie A2. Torniamo sulla convincente vittoria di Cividale, che al Palagestecco ieri sera ha battuto Livorno. Quarta vittoria nelle ultime sei gare per gli uomini di coach Pilastrini, che raggiungono proprio i toscani all'ottavo posto a quota 14 punti. In ogni stagione c'è sempre una partita che può segnare una svolta. Per Cividale la vittoria netta di ieri contro l'ambiziosa Livorno potrebbe esserlo, non tanto per le proporzioni quanto per la continuità nel gioco, da sempre tallone d'Achille dei Ducali, e per una versione di completa rottura rispetto a quella delle annate precedenti. Vincere di 20 con Redivo versione playmaker d'ordine dalla panchina per soli 16 minuti e senza tiri da tre punti tentati è un segnale al torneo: siamo cambiati. La squadra di Pilastrini non abusa del tiro da fuori, ma lo usa per aprire la scatola. Marangon mette due triple nei primi minuti e poi segna su assist del miglior rota di questi primi due mesi, ma la prima minifuga è targata Freeman e Ferrari, complementari, e un vero rebus per il robusto reparto lunghi labronico. Il vantaggio si accumula nel secondo quarto grazie alla difesa sullo spauracchio Woodson, con due canestri consecutivi dell'americano e più 15, nonostante qualche problemino di falli al riposo, e 44 a 28. La ripresa con la liberta senza Valentini, che fatica a trovare canestri dagli esterni, ma soprattutto a reggere dietro, dura relativamente poco. La Gesteco continua a servire Ferrari, trova la bomba del più 17 con rota e dà continuità all'attacco con varietà di soluzioni da mal di testa che porta spesso a falli subiti e relativi tiri liberi realizzati. Si vede anche Berti, che conferma l'ottimo momento, e il 2-1 di uno scatenato Ferrari vale gioco, partita e incontro, con più di un quarto ancora da giocare. Stavolta la concentrazione infatti non cala nonostante l'enorme vantaggio. Tozzi e Piccoli abbozzano una reazione che il solito Freeman spegne. 83-65, sesto posto in classifica. Domenica in casa della capolista, a sorpresa Pesaro, c'è la possibilità di ridurre il gap dalla testa. Andrea Saule, TGR Friuli Venezia Giulia. Pallavolo Serie A 2, convincente vittoria ieri per la Tinet Prata che ha battuto per 3-0 Macerata con parziali di 25-19 e 25-22. Un match mai in discussione, una vittoria, la terza di seguito tra le mura amiche, che permette ai pordenonesi di mantenersi al secondo posto in classifica. Domenica prossima i gialloblu sono attesi nella trasferta sul campo di Fano. L'Assemblea dei Soci ha approvato il bilancio di esercizio al 30 giugno 2025 dell'Udinese Calcio, che fa registrare un utile pari a 2.900.000 euro. Una situazione patrimoniale e finanziaria con pochissimi eguali sullo scenario europeo, sottolinea una nota della società. I conti del club bianconero si confermano floridi, come evidenziato dal risultato positivo dell'esercizio relativo alla stagione 2024-2025 e non solo. Il patrimonio netto si attesta a 115 milioni di euro, in crescita sostanziale anche il valore della produzione, che sale dai 120 milioni dell'anno passato agli oltre 141 milioni di questo esercizio. Anche il valore potenziale del parco giocatori si conferma in crescita, stabile in 244 milioni di euro e prevalentemente attribuibile a giovani talenti della Rosa che rappresentano una solida base per le stagioni a venire. Ed è tutto per questa edizione del nostro giornale radio. In redazione ha collaborato Samantha Gon, per la parte tecnica in regia Bruno Montevecchi ed Eugenio Giuffrida. Il prossimo giornale radio alle 15, aggiornamenti sull'ondata di maltempo che ha investito la regione, in particolare i comuni di Cormons e di Romans. E l'emergenza è stata dichiarata o sta per essere dichiarata dall'assessore regionale Riccardi, che chiede la mobilitazione nazionale per avere il supporto delle altre regioni. E tutto da parte di Elisabetta Zaccolo e di Daniele Lettig, il prossimo GR appunto alle 15. Buon pomeriggio a tutti. Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.